abbandonati a me per poter sognare. Abbandonati a me per dimenticare. L'illusione io son che il tuo cuor vuole ancora. L'illusione d'un vero amor. Abbandonati a me, stammi più vicino. Sono nato per te, sono il tuo destino. L'illusione io son che ti sa consolar. Abbandonati a me per amar, per sognar.